Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Benvenuti e benvenute sulle frequenze di Radio Città Fucico. Oggi in studio Priscilla e Frey. Noi siamo Van Loon, la vostra mezz'ora di storia, di musica e oggi anche di letteratura. In realtà non è la prima volta che ci facciamo rapire dalla capacità della letteratura e dei romanzi di raccontarci microstorie passate o la storia con la S maiuscola. Oggi però usciamo dal filone noir e giallo che abbiamo più volte esplorato per parlare di una storia d'amore, di guerra e di prigionia. Sembra che stia per introdurre un libro di Edoardo Galeano, ma non è Galeano. È la giovane scrittrice Irene Pavan con la sua opera prima Solo per dirti addio, edito lo scorso anno da Nuova Dimensione di Venezia. Il libro di Irene Pavan sembra infatti una storia di amore, la copertina trasmette immediatamente questa idea, ma in realtà è un ottimo lavoro di ricostruzione che intreccia magistralmente biografia e storia. La biografia è quella di suo nonno, Olindo Pavan, prigioniero di guerra catturato dall'esercito inglese vicino Tunisi nel maggio del 1943. E trasferito nei campi di prigionia e lavoro nei pressi di Manchester. A breve faremo una chiacchierata direttamente con l'autrice per capire insieme la genesi di questo libro e il suo metodo, quello che le ha permesso di scrivere un libro così leggero ma non superficiale su un pezzo di storia familiare e collettiva. Queste storie infatti sono per lo più sconosciute nonostante in molti finirono catturati dagli alleati. In più, tanti militari italiani prigionieri nei campi degli alleati, per pudore o vergogna, non hanno mai raccontato la loro storia. L'immagine che riscattava il passato fascista era quello del partigiano in armi. Per l'Italia repubblicana, i prigionieri di guerra rappresentavano un'eredità troppo scomoda e difficile da trasmettere. Solo negli ultimi anni, infatti, in Italia si sta facendo ricerca su questi temi e molti figli e nipoti, soprattutto come Irene, stanno provando a ricostruire l'esperienza dei padri e dei nonni in prigionia. Ma prima di parlare ancora di prigionia, ascoltiamo un frammento dell'indimenticabile colonna sonora del film La Grande Fuga con il mitico Steve McQueen. Tra la fine del 1940 e i primi mesi del 1941, le truppe italiane in Nord Africa collassano e nel giro di breve tempo gli alleati hanno a disposizione ben 130.000 prigionieri italiani, giovani e in forze. Il loro numero poi è destinato a crescere, come sappiamo. Churchill vuole risolvere rapidamente il problema. Mostrare che i bianchi inglesi catturavano come prigionieri uomini altrettanto bianchi potenzialmente avrebbe scatenato rivendicazioni tra le popolazioni africane e non gradite agli alleati, che già pianificavano per il dopoguerra un controllo economico e politico della Libia e del resto del Nord Africa. Gli italiani vengono quindi suddivisi in India, Australia, Sudafrica, poi in Kenya, Stati Uniti e infine Gran Bretagna. Come vi abbiamo annunciato, adesso andremo ad affrontare questa storia parlando con Irene Pavan, l'autrice di Solo per dirti addio. Eccoci qua, diamo il benvenuto alla nostra autrice Irene Pavan. Allora, ciao innanzitutto. Ciao, ciao Alessia. Ciao. Allora, volevamo chiederti un po' di parlare del tuo libro, se ci racconti chi sei innanzitutto, perché vogliamo presentarti al nostro pubblico, e poi la storia, la tematica al centro del libro e quando e perché hai deciso di scriverlo. Sì, certo, è un piacere. Beh, il romanzo che ho scritto, ormai è stato pubblicato quasi 2 anni fa, si intitola Solo per dirti addio, ed è un romanzo storico ispirato alla vita realmente vissuta di mio nonno paterno. È una storia che, diciamo, mi è arrivata addosso veramente all'improvviso, ormai 18 anni fa. È arrivata una lettera, infatti, a casa di mio nonno, una lettera in inglese, in lingua, che io sono stata chiamata a tradurre. E quando sono arrivata lì mi sono accorta che in realtà era una dichiarazione d'amore da una donna che aveva ovviamente conosciuto e vissuto con mio nonno. Questa lettera quindi, diciamo, ha portato gran scompiglio in famiglia ed è stata per noi un'enorme sorpresa, perché del nonno, insomma, del suo passato ne conoscevamo veramente poco. Questa per me, diciamo, è stata un po' la scintilla, no, che ha fatto scattare forse la curiosità femminile di una nipote, o insomma mi sono messa un po' alla ricerca, no, sulle tracce di questa vita passata. E ho cominciato a raccogliere i tasselli, appunto, di questa lunghissima storia. E man mano che raccoglievo questi tasselli, che venivo appunto a conoscenza di che cosa loro avevano vissuto, di come l'avevano vissuto, i sentimenti che li avevano legati, mi sono resa conto veramente alla fine di quanto profonda fosse, insomma, questa loro esperienza, e ho sentito veramente un bisogno quasi fisico di scriverla, di metterla giù, e l'ho fatto innanzitutto per i miei figli, perché ho detto: voi dovete sapere prima o poi che cosa ha vissuto vostro bisnonno, perché per loro appunto sarebbe il bisnonno, e mi piaceva, insomma, di metterli così, di coinvolgerli in qualche modo in questa storia di famiglia che per tantissimi anni era rimasta sconosciuta. E quindi, diciamo, ho scritto un romanzo, quindi un romanzo che ha, diciamo, degli approfondimenti storici abbastanza puntuali, precisi, ma che non è un documento storico, insomma, non ha la pretesa di diciamo essere quindi didattico o diciamo di un documento ufficiale come può scriverlo uno storico. È un romanzo ispirato però a fatti realmente accaduti e appunto la vita di un uomo e di una donna che realmente ha, diciamo, vissuto quelle occasioni e, diciamo, quelle vicissitudini, insomma. Che hanno visto anche stravolta la propria vita dalla guerra, sostanzialmente. Sì, mio nonno si trovava in Libia, aveva 18 anni, e quando appunto l'Italia è entrata nel secondo conflitto mondiale, lui sostanzialmente si trovava al posto sbagliato nel momento sbagliato, cioè era proprio sul fronte, no? Quindi lui e i fratelli furono tra i primissimi, insomma, ad essere proprio impiegati in prima linea. E diciamo, quando poi nel 1943 fu fatto prigioniero, dagli alleati, quindi dagli inglesi, e siccome, diciamo, aveva alcune caratteristiche particolari, tra cui appunto il fatto di non essere graduato, non essere fascista, cioè aveva delle caratteristiche tali che, diciamo, lo rendevano interessante agli inglesi per essere impiegato nei lavori forzati. Quindi gli inglesi alla fine lo portarono in madre patria, sempre appunto nella primavera del 43, e lì mio nonno rimase fino a luglio del 1946, quando rientrò con uno degli ultimi treni da Verona Pescantina. La storia che ho ricostruito è quindi la storia di un uomo, sostanzialmente, ma questa storia viene poi ad intrecciarsi con diciamo i fatti appunto della colonizzazione libica, diciamo gli accadimenti appunto della seconda guerra mondiale, e anche se vogliamo i risvolti così politici tra il governo, insomma, inglese e il governo italiano. Quindi, diciamo, la storia di quest'uomo in realtà va veramente a in qualche modo inserirsi dentro una grande storia molto più complessa che ho per forza di cose dovuto ricostruire per dare un senso al libro e alle vicende che stavo raccontando. Una delle cose incredibili che ho scoperto leggendo il tuo libro, ecco, che anche se tu non hai un'esperienza, un passato da ricercatrice di storia, hai avuto però la grande capacità di fare veramente una grandissima, una bellissima ricostruzione della storia di tuo nonno, che appunto hai voluto scoprire perché molte cose, come dicevi tu, non le sapevi, e sei riuscita a intrecciare la biografia ricostruita di tuo nonno con il grande scenario della storia della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto di questa storia, anche come abbiamo detto prima, poco conosciuta, dei militari italiani prigionieri, degli alleati, non solo in Inghilterra come il caso specifico di tuo nonno, ma in tanti altri paesi. Quindi mi interessava proprio capire, tu che non hai esperienza di ricerca storica, come sei riuscita a trovare, cercare le fonti, accedere agli archivi, insomma, quali fonti hai deciso di utilizzare e quali persone poi ti hanno aiutato in questo grandissimo lavoro di ricostruzione? Sì, io credo che il destino abbia veramente messo il suo zampino in tutta questa storia, perché mio nonno, dopo pochi mesi, dopo aver ricevuto appunto la lettera, dopo pochi mesi mio nonno morì. Non parlò prima di questi fatti e non ne parlò nemmeno durante quei mesi in cui lui era molto malato. Questo a me ha dato, diciamo, motivo, forte motivo, nell'arrangiarmi, no, ricostruire la storia, poiché io avevo sì la controparte inglese, alla quale, diciamo, poi questa signora, io ho iniziato appunto a diciamo contattarla, sono andata anche appunto lì in visita, eccetera, però chiaramente la sua era, diciamo, la parte emotiva della storia, quindi lei mi poteva raccontare, insomma, l'amore che aveva vissuto a 20 anni con questa persona. Mi mancava, diciamo, tutta una ricostruzione, ripeto, la cornice al quadro che stavo cercando di tratteggiare, e io, diciamo, all'epoca scelsi di usare la stessa tecnica, se vogliamo, la stessa procedura che avevo usato per fare la tesi di laurea. Io sono laureata in economia aziendale, quindi non c'entra assolutamente con il giornalismo, con, diciamo, lettere, eccetera, però io ho seguito, diciamo, la stessa procedura, quindi mi sono innanzitutto andata a recuperare dei documenti ufficiali, quindi mi sono rivolta appunto all'archivio militare di Padova, che era il distretto dal quale appunto mio nonno, insomma, era stato arruolato, e lì ho trovato il fascicolo matricolare, cioè, diciamo, la storia di tutto ciò che era successo a mio nonno nell'esercito, quindi con tanto di date, di luoghi, e questo è stato fondamentale per dare proprio se vogliamo una struttura logica alla storia. E poi avrei potuto, diciamo, rivolgermi così anche magari ai parenti, ai conoscenti, ma capivo che i loro ricordi erano frammentari, si contraddicevano tra di loro, non... Allora a quel punto mi sono rivolta agli scritti ufficiali e sono stata fortunatissima, perché mi sono imbattuta appunto nel libro della storica, la dottoressa Isabella Insolvibile, che è veramente, diciamo, un trattato completo, e ma anche molto fruibile anche a chi come me appunto non era uno storico, insomma, non era un addetto ai lavori. E il suo lavoro è veramente diciamo molto completo, perché parla della vita dei prigionieri in tutti gli aspetti, ma anche diciamo parla delle vicende politiche, delle vicende diciamo di ciò che è venuto prima della prigionia e ciò che anche di risvolti appunto che sono venuti dopo con il rimpatrio. Quindi è veramente stato per me un lavoro fondamentale. Siccome però io stavo scrivendo un romanzo, avevo anche bisogno di, diciamo, l'aspetto quindi emotivo, avevo bisogno di capire com'era la vita di tutti i giorni, e questo non lo potevo trovare nel trattato di storia, no? E quindi io, diciamo, ho passato veramente notti e notti sul sito di BBC, dove c'è appunto una sezione dedicata alla storia, in particolare una ricchissima dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, dove negli anni Ottanta, diciamo, la BBC aveva raccolto centinaia di testimonianze di inglesi, ma anche di emigrati, cioè di gente che poi, insomma, si è trasferita stabilmente in Inghilterra, memorie appunto relativamente alla Seconda Guerra Mondiale, e tantissime sono memorie relative ai prigionieri. E quindi qui, diciamo, si raccontavano vicende quotidiane, no? Per esempio, appunto, il regalo, cioè il fatto che i prigionieri vivessero a strettissimo contatto anche con la popolazione, il fatto che fossero buona gente, che fabbricassero questi, diciamo, oggettini in legno che poi regalavano ai bambini, oppure altri fatti di cronaca, alcuni anche, diciamo, poco piacevoli, e anche, diciamo, l'aspetto appunto del, così, del razzismo nei confronti appunto di un popolo che sicuramente non, gli inglesi non trivano un'alta stima degli italiani, anzi, eravamo veramente subito dopo i negri, cioè per dire, eravamo un po' così, un popolo di mezzi selvaggi secondo loro, no? E, anche se, diciamo, comunque le signore ne erano particolarmente affascinate, quindi insomma io, ecco, in queste, se vogliamo così, nottate attese a leggere queste, diciamo, memorie, sono riuscita un po' a farmi l'idea di che cosa significava vivere in quegli anni, in quei periodi, e quindi ho avuto, diciamo, così magari una visione un po' più completa, che chiaramente il trattato, appunto il libro, diciamo, scritto dallo storico non poteva darmi. E la cosa meravigliosa è che poi tutti questi piccoli tasselli tra di loro si agganciavano, cioè tutto collimava, nel senso che la fotografia che trovavo diciamo illustrava la stessa situazione che avevo trovato in quella memoria e che era benissimo descritta nel libro di Isabella Inciolvibile. Quindi diciamo la bellezza di tutto questo era proprio nel fatto che, pur andando a ricavare queste tessere da posti completamente diversi, alla fine si agganciavano come per magia e riuscivo, insomma, a ricostruire questo mosaico complesso che è come può essere la vita di un uomo, insomma, ecco. Bellissimo, grazie Irene, davvero sei stata formidabile. Bravo. Grazie a voi. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena, hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oea, arriba la luna, oea. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oea, arriva la luna, oea, arriva la luna, oea. Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló. Pero eso no fue todo. Como complemento inventó la comida a bordo. Oh, creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso. Allora, abbiamo ascoltato Manu Chao di A Luna di Apena, per canzoni che abbiamo scelto per chiudere la bella intervista che abbiamo fatto con Irene Pavan, l'autrice di Solo per dirti addio. E Solo per dirti addio racconta dei prigionieri italiani della Seconda Guerra Mondiale in Gran Bretagna e racconta quella che è in parte stata la loro vita. Questi prigionieri italiani venivano impiegati massicciamente per la produzione di patate e di barbabietole. I campi di prigionia inglesi però non erano dei campi di sterminio. Tre pasti al giorno e un letto dove dormire alcuni di loro non li avevano visti per anni durante la guerra e alcuni di loro poi non avevano mai mangiato nella loro vita tre volte al giorno. Ma sicuramente non è stata una vacanza. Privati della libertà, sfruttati come forza lavoro, senza notizie delle famiglie, l'universo del campo in cui vivevano era un micromondo complesso dove per esempio fascismo e antifascismo, collaborazione e non collaborazione con gli inglesi, si basavano anche su degli equilibri specifici del campo stesso, sul rapporto con gli altri prigionieri, con le guardie, con le autorità e sulle poche notizie che arrivavano sulle sorti della guerra e dello Stato fascista. Le carte infatti si erano rimescolate molto a partire dal settembre del 1943, quando l'Italia sconfitta ha firmato l'armistizio con gli alleati. anche per i prigionieri italiani iniziò una fase diversa. Venne richiesta loro dall'esercito inglese di scegliere tra la collaborazione o la non collaborazione. Il loro status di prigioniero non cambiava, ma potevano avere qualche vantaggio. La decisione non era semplice però, e scegliere di non collaborare con gli inglesi a volte non dipendeva solo da un credo fascista, voleva anche dire non piegarsi ai propri carcerieri. Gli italiani sarebbero stati rimpatriati solo nel 1946 e le motivazioni di questo ritardo erano tante. Ad esempio, governo italiano e governo britannico si erano accordati per far concludere ai prigionieri di guerra il raccolto del 1946. Il governo italiano, dal canto suo, non sapeva chi sarebbe tornato dalla prigionia. Tutti comunisti? Tutti ancora fascisti? E cosa avrebbero preteso? Si doveva scongiurare il ruolo che i reduci della prima guerra avevano avuto nella costruzione del consenso al fascismo nei suoi primi anni. Comunque, per approfondire la storia dei prigionieri italiani in Gran Bretagna, vi suggeriamo un libro di cui ha parlato anche Irene Pavana durante l'intervista, di Isabella Insolvibile, WOPS, Prigionieri Italiani in Gran Bretagna 1941-1946, edito da Edizioni Scientifiche Italiane di Napoli, e in più anche un libro non ancora tradotto in italiano. Sì, è il libro di Lucio Sponza, Divided Loyalties, Italians in Britain During the Second World War, edito da Peter Lang nel 2000. Sì, purtroppo libro non ancora tradotto in italiano, ma per chi avesse un po' il gusto di approfondire l'argomento sicuramente varrebbe la pena leggerlo. Come naturalmente ricordiamo in chiusura di puntata, vi suggeriamo di andare a recuperare Solo per dirti addio, libro di Irene Pavan, edito nel 2016 da Nuova Dimensione di Venezia. Bel libro che consigliamo caldamente. Siamo arrivati in coda, Priscilla, e andiamo a suggerire un po' di appuntamenti per il fine settimana e qualche piccolo approfondimento. Partiamo da oggi pomeriggio, ve l'abbiamo già citato nella puntata della settimana scorsa, c'è il Festival della Letteratura Antifascista VAG 61 e c'è una bella discussione con Valerio Renzi, l'autore del libro... La politica della ruspa, mi sembra, scusate l'imprecisione, è un libro di edizione Allegre, comunque che vale la pena leggere e andare sicuramente al Festival della Letteratura Antifascista. Qualcuno della redazione ha fatto un salto di qualità e potreste scoprire Priscilla andando a visitare Rai Play, nella pagina di Rai Storia, e in particolare il programma Passato e Presente. C'è una puntata del famoso programma con Paolo Mieli in cui compare anche la nostra Priscilla che parla di Gheddafi. Poi, se avete la pazienza di continuare a seguire il Presente e la Storia, la vedrete, Passato e Presente, scusate, la ritroverete spesso. Altri suggerimenti da Frey, c'è una bellissima puntata, due bellissime puntate di Uomini e Profeti, il programma della domenica mattina di Radio 3 a tematica religiosa. Stiamo alzando sempre più il livello. Che parla di rivoluzione e l'iconostasi, puntata del 19-11 e la puntata del 26-11 con Adriano Roncucci. Ascolto un po' impegnativa, ma sicuramente vale la pena. Bene, per questa settimana è tutto, e noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre alle 14, sempre sui 103.1, sempre con Ballun, la vostra mezz'ora di storia. Buon proseguimento di giornata da Frey e Priscilla, buon pomeriggio. Ciao!